Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Radio 24 Reportage. Il lago di Como ha due rami e la città ha due anime. Un'anima generosa, quella dei volontari, degli attivisti, spesso legata alla Chiesa, che sopperisce alle carenze delle istituzioni occupandosi degli ultimi e di chi arriva in questa città di frontiera da altri paesi. L'altra anima, più cinica e dura, si appella al decoro, respinge chi ha bisogno e chi è povero, ma anche chi aiuta i poveri e i bisognosi. Il 7 di settembre il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che conferisce la medaglia d'oro alla memoria, al merito civile, a Don Roberto Malgesini, ucciso a Como davanti alla chiesa di San Rocco da uno di quei senza tetto stranieri che lui aiutava. Mattarella ha parlato di un esempio di altruismo e coraggio. Nelle stesse ore, Como ha negato alla memoria del prete di strada la massima onorificenza della città. Il comune non ha accolto la proposta di assegnare a Don Malgesini l'abbondino d'oro 2020. La città non lo ha mai capito, aveva detto infatti il direttore della Caritas. Ma chi era Don Malgesini e cosa è cambiato in città da quando è morto, ormai quasi un mese fa? Siamo andati a Como per capirlo. Io gli dicevo: Don Roberto, stai poi attento perché tu rischi, no, a vivere anche. E lui mi diceva: quel che il Signore vuole. Don Roberto era proprio una persona che sapeva accompagnare, che sapeva stare accanto, dalle colazioni del mattino presto, agli accompagnamenti in ospedale piuttosto che in questura, per cui c'era una dimensione molto concreta dell'aiuto. La multa a Don Roberto e ai suoi volontari che portavano il panettone e il latte caldo al mattino ai più poveri. E questo naturalmente porta anche a non affrontare e a non conoscere il disagio, tra cui il disagio psichico. Nel bacio della chitarra ho scondito questa vita, sia i pagini in russo che qui scrivo a matita, e il coltello in una mano e nell'altra un mazzo di fiù, perché l'amore e la morte io sempre le scondo. Originario di Cosio Valtellina, dove aveva studiato ragioneria e dove faceva l'impiegato di banca, Don Roberto ogni mattina a Como distribuiva le colazioni alle persone senza fissa dimora, italiani e stranieri, senza distinzioni, davanti alla chiesa di San Rocco. Ed è qui che incontro Paola Della Casa. Don Roberto era anzitutto un amico, per cui c'è un doppio dolore, no? Il dolore per la perdita di un amico e il dolore per le persone che lui seguiva, per aver perso qualcuno che nelle loro vite rappresentava veramente una figura centrale che riempiva quel vuoto, no? Spesso di vite dove le relazioni sono molto, molto, molto scarse. Don Roberto era un grandissimo mediatore, io sono volontaria anche alla mensa serale al di là di altri ruoli e quando avevamo qualsiasi tipo di difficoltà, c'erano dei momenti di tensione, Don Roberto riusciva sempre, no, con una parola, con un gesto a sciogliere, no, quella tensione, a rendere il conflitto dialogo, aveva proprio questa capacità, l'umiltà. Don Roberto era quello che in mensa serale non c'era verso di non fargli non pulire i bagni, no? C'erano i bagni alla fine della mensa, noi ci fermiamo sempre a pulire la sala, a pulire i tavoli eccetera e lui puliva i bagni quando diceva: ma dai donna, facciamo i turni. No, io pulisco il bagno, cioè e questo è un esempio molto semplice ma che dice proprio della persona che è, no? Aveva un'altra grande capacità che era quella della sospensione del giudizio, non ti sentivi mai giudicato, no? Era una persona che aveva proprio una capacità grande, no? di accoglierti per quello che era, lui lo faceva con tutti. Ma questo spirito di accoglienza era mal tollerato dalle istituzioni di una città che ha inventato delle multe per chi distribuisce la colazione e fa la carità, che ha messo le sbarre al sottoportico di San Francesco, dove durante l'inverno si vanno a riparare tanti senza fissa dimora. Nello Scavo, giornalista di Avvenire, si occupa di immigrazione e vive a Como da molti anni. è una città di frontiera e sembra delle volte che la politica e anche i residenti non vogliono accettare o rendersi conto di questa, che in fondo è una caratteristica ma anche un'anomalia. I territori di frontiera vengono gestiti in un altro modo. I transiti qui non si sono mai fermati, una volta erano gli albanesi o i kosovari e più di recente sono soprattutto i nordafricani, tornano anche pakistani e afghani. E questo è un fatto e non si può eludere questo fatto e probabilmente non si può neanche cancellare. Andrebbe affrontato, però c'è stato il tentativo della rimozione qualche anno fa, ricordo quando appunto fu multato Don Roberto, lo scopo era tenere i poveri fuori dalla cerchia della città bene, perché alla vigilia di Natale in qualche modo questo disturbava e sporcava il commercio del periodo in cui tutti dovremmo essere più buoni. Senza rimuovere o affrontare il problema, ma semplicemente facendolo sparire dall'orizzonte pubblico. È successo tante volte a Como, le panchine che vengono fatte sparire, i rubinetti delle fontanelle che vengono sigillati, la multa a Don Roberto e ai suoi volontari che portavano il panettone e il latte caldo al mattino ai più poveri. E questo naturalmente porta anche a non affrontare e a non conoscere il disagio, tra cui il disagio psichico, che in questo caso probabilmente avrebbe dovuto essere affrontato in un altro modo, perché i volontari avevano segnalato il disagio, in particolare da parte dell'assassino di Don Roberto. Il timore è che tutto si risolva magari aprendo un nuovo dormitorio, dedicandolo a Don Roberto, ma senza cambiare l'approccio della città a questo tema. Ricordiamo che Don Roberto ha pagato forse anche per altri, perché il suo assassino aveva in mente di uccidere due avvocati o addirittura anche il prefetto di Como. È una tragedia che nasce dall'odio, ma anche dal non aver affrontato alcuni problemi, dice il direttore della Caritas di Como, Roberto Bernasconi, al quale abbiamo chiesto se dalla morte di Don Roberto Malgesini qualcosa in città è cambiato. Non è cambiato assolutamente niente. In questo momento stiamo faticando con le mense, il dormitorio, ci sono tutti questi spazi di accoglienza per le persone che stanno in strada, che per la particolarità di Como sono tante, come una città di 80.000 abitanti, sul suo territorio girano regolarmente dalle 250 alle 300 persone senza fissa dimora. Como ha all'incirca 250 appartamenti comunali che sono vuoti, ci sono degli spazi ampi, l'ex carcere di San Donnino, una casa grossa in via Volta, in teoria potrebbero servire per questo, però poi non c'è una volontà politica. Io credo che non sia questione di cose pratiche, dormitori, eccetera, che pur ci vogliono, però se non cambia la mentalità della gente non ne usciremo mai da questa situazione, ma passata l'emotività torniamo alle fatiche di sempre. L'aggravante è che tutte le persone senza fissa dimora che stanno in città poi rischiano anche di incattivirsi di fronte a non risposte. La sicurezza e la crescita di una società parte sempre, secondo me, dall'attenzione agli ultimi. Però la vicenda di Don Roberto insegna anche che le persone che vengono aiutate talvolta si rivoltano contro colui che le ha proprio aiutate. Fino a un certo punto, perché se noi analizziamo la storia di questo signore, è una storia molto complicata, era anni che era qui in città, tutti negano adesso, ma aveva dei problemi psichici grossi che non sono stati risolti, per cui si sapeva. Però non ci sono carte che dicono questo. Perché le varie ASL, eccetera, non ci fanno mai la faccia in questo, non è mai stato fatto un ricovero serio, anche se a parole si diceva che aveva problemi di questo tipo qui, lui prendeva dei farmaci anche rispetto a questa roba, adesso tutti negano chiaramente, no? Perché poi se non neghi tiri fuori le responsabilità e dopo diventa difficile. Per cui quello che è successo, che non doveva succedere, è colpa anche di questa incuria rispetto ad esempio alla malattia psichica, che è una cosa gravissima. Io dei casi che ho seguito personalmente, c'era proprio da denunciare quasi le strutture perché non hanno colto queste persone dicendo ma hai bevuto un po'. Non era così. Viene subito alla mente un altro fatto di cronaca che ha scioccato la città 3 anni fa. Nell'ottobre 2017 un padre di famiglia di origini marocchine residente a Como, Fayyat Aitot, documenti in regola ma disoccupato, diede fuoco all'appartamento dove viveva con i figli piccoli. Morirono tutti. prima del gesto, aveva scritto al quotidiano locale La Provincia attraverso Facebook. «Sono un padre di 50 anni», scriveva. «Vivo con i miei 4 figli, di 11, 7, 5 e 3 anni. Vivo solo con loro. Ho chiesto aiuto economico all'assistente. Zero. Ho chiesto al dirigente dei servizi sociali. Diceva, il comune paga l'affitto, ma siamo rimasti senza mangiare. Voglio capire se viviamo a Como, Lombardia, Italia o nel paese delle scimmie. Non vado via, per paura dei servizi sociali». Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.